Lorenzo, ricordi questa... Iniziò la registrazione. Stiamo provando i nostri volumi. Cioè, sente la sua. Ma quello è il gatto Nian. No. Cosa è successo? Ma quella è quella di là. Allora, forse ce la facciamo. Non prendeteci in giro. Prova. Questo era ancora il Garulf delle Siamo neri. Partiti malissimo, voglio. Malissimo. Malissimo. È meta teatro. Siamo partiti peggio, quindi non malissimo. E ci siamo finalmente con i Mozilla Bros, amici. E buonasera a tutti di nuovo, i nostri radioascoltatori. Siamo di nuovo noi, Mozilla Bros, con qualche sfiga sempre di troppo. Esatto. Abbiamo... Ogni mercoledì alle 7 più qualche X minuto in più. E come al solito, la sfiga ci accompagna. Marfi e Gesù. Grazie. Sempre quando sono uscite quelle droghe audio che si mettevano. Idop, sì, bellissimo. Che non funzionavano, ce le ho provate tutte. So. Prova il trip e poi mi dici. Forse volevano un pochino aiutate, ci volevano aiuto. Però questa qua invece è un nuovo esperimento, ti prende più sul lato psicologico. Come funziona? È gattoniano. Vabbè, non è... È una versione particolare del gattoniano. Ritornando... Questo è l'effetto dei nerd al completo in regia, cioè. Esatto, è tornato Garulf, è tornata la nerdaggine più assoluta, perché... La prossima ora di puntata avrà solo lo sfondo, lo sapete. Fantastico. La settimana scorsa vi deliziavamo con bellissimi pezzacci piano, swing, jazz. Adesso è tornato il gatto Nayan a farci compagnia. Ma bandone, ma c'è poco. Salutiamo qui chi c'è in regia. No, a proposito di piano, jazz, swing, scorsa. Ok, adesso dovrò stare zitto per il resto della puntata. Abbiamo deciso che il gatto Nian sarà lo sfondo di tutte le puntate, di tutte le stagioni di Mozilla Bros. Certo, democraticamente scelto. Comunque passo a salutare... La nostra vita. Eh sì, passo a salutare i membri in regia. Ci sono Marco Nosendai. Membri. Ciccillo. Membri. Ospite speciale. No, ospite speciale, nonché di ritorno, il nostro grandissimo Marco Garulf. Membro. Mentre qui in cabina di registrazione ci sono l'altissimo Andrea Blues. Ma non sono un membro, sono un componente. Tu sei un membro gigante proprio. È stato zitto tu. C'è il timidissimo Stefano Blues, che non vorrà parlare mai. Intanto un saluto ce lo fa? Ce lo fa un saluto? Mi sto sgasciando dalle risate. Esatto, e poi c'è il vostro Lorenzo Blues qui a dire minchiate. Passiamo col primo pezzo, visto che abbiamo questo già... questo lo sapevano già tutti. Esatto. Passiamo col prossimo pezzo. Mi siccamo. Don't play, though. Che abbiamo già fatto tardi. Penso sia Keb Mo. Am I wrong? Bellissimo blues. Oh, passiamo Mo, infatti. Esatto. Falling in love with you. Tell me, am I wrong? Well, falling in love with you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. Sweet thing, tell me, am I wrong? Got to be strong. Well, I know you're depending on me. You know I got to be strong. I know you're depending on me to give you all of my attention, all of my time, and all of the love you need. Oh, tell me, am I wrong? Siamo ritornati in onda, siamo in Mozilla Bros. Mi sono dimenticato di dirvi dove ci potete trovare. Quindi sulle FM, nella zona urbana di Cosenza e oltre, diciamo da Tarsi a Rogliano. A Cosenza Vecchia. A Cosenza Vecchia. Chiaramente a Cosenza Vecchia in Casa Vinedda, che non mi ricordo mai come si chiama. Via Isabella qualcosa, ad Aragona. Che li sapete. Che li sapete. Vabbè, sull'etere, sulla frequenza 105.7. L'Eternet. Sull'internet invece. Sui siti nostri, quindi su www.mozillabros.com. Esperimenti di regia. Esatto. E sul sito di Giroma, www.giroma.org, perché siamo stati da questa, radio. Ma io, è la Madonna. No, sta succedendo? Poi siamo forse in replica su Radio Transizione Fase, se riusciamo a registrare il podcast ogni lunedì. Alle 20, alle 20 più o mentre meno. In replica anche su Fuori Onda Radio, che è la radio del collettivo Banda Armata, una cosa del genere. E potete anche telefonarci, ricordiamo, Lorenzo Blues allo 0984 28 250, perché tu sei l'addetto ai contatti. Se volete invece scriverci per mail, potete scrivere all'indirizzo info@mozillabros.com e lamentarvi delle cose che diciamo. Dunque, abbiamo appena passato una canzone di Keb Mo, che è un bluesman recente, relativamente recente, vero Andrea? Cioè, non è uno di quei bluesman nato negli anni 20 che ha sentito tutta la sofferenza dei campi di grano. Non fa parte della stirpe dei bluesman leggendari, quelli degli anni 30, per intenderci. Sì, esatto, Muddy Waters, Robert Jones. Sì, insomma, infatti è nato nel 1951. È relativamente recente, però c'ha, sa. Sì, direi proprio di sì. È relativamente giovane, possiamo dire, in confronto alle varie icone del grande, ma di vuoto, dello stoico blues. Sì, vabbè. Degli altri bluesmen che siamo abituati a sentire, che siete abituati anche a sentire voi quando li passiamo. comunque lui non è conosciutissimo forse dalla nostra parte. No, eh? No, no, però non ha niente da invidiare secondo me a tutti quanti quelli che abbiamo citato prima, anche i più grandi di loro. Infatti avete avuto modo di sentire questo pezzaccio che secondo me è fantastico. Chitarra slide, qualche percussione di fondo, dà proprio l'idea di Mississippi Delta Blues, vero? Sì, forse qualche tocco anche di etnico. Sì, sì, sì, vabbè, chiaramente il blues ha quelle origini. Questo bluesman è, tra l'altro, è molto è poliedrico, dato che suona la chitarra, comunque il banjo, ma è in grado di suonare anche la tastiera e l'armonica, come tu ben sai, come tu ben mi insegni. E inoltre ha una voce che sa, sente i feels. Ha rilasciato numerosi album e noi siamo venuti a conoscenza del suo blues grazie ai quei documentari che il grandissimo Martin Scorsese ci ha donato. La serie di documentari The Blues, uno in particolare è incentrato proprio su di lui, sul fatto che comunque un bluesman recente abbia fatto tanta strada, perché comunque in America è conosciutissimo, che questo si sappia. Quindi forse abbiamo scaricati questi documentari, scusa. Garulf, se non sbaglio, si stava occupando. Okay, non sono facilissimi da trovare anche sulle reti peer-to-peer. M-Nerd, i registi sono vari. Sono stati prodotti tutti da Martin Scorsese, però affidati a registi del genere. Ad è una bella composizione. Con questo sottofondo che non si può sentire, io inviterei il nostro regista di fiducia a passarci il prossimo pezzaccio. E poi magari introdurre. Abbiamo già finito su Cap Nuovo, Lorenzo? Eh sì, non possiamo stare sempre a parlare di cose blues, anche perché sono. C'è una cosa importante da dire. Poi con quella cravatta professionale, cioè. Sì, va bene. Sì, sai, ho una relazione fissa con blues. Ogni tanto mi congelo in questi abiti particolarmente strosi. Per amore del blues. C'ha stile il ragazzo, dai. Cravatta color frappè. Sì. Frappè l'ho versato prima, fresco. Di giornata. Dicevamo che Bmo, non proprio Mo, ma tempo fa, ha fatto parte del progetto. Ma visto che ha detto questa grandissima minchiata. Siamo due canzoni. Sì, me l'avevo detto in modo ci sorvolo. Che Bmo sarebbe evidenziata. Sarebbe il diminutivo, comunque l'acronimo di Kevin Moore. Perché stai accorciato. Hai studiato. Grazie al cazzo. Dicevo, ha fatto parte del progetto Playing for Change, che non ne abbiamo mai parlato, ma è una cosa interessantissima. Gioca per cambiare. È preparato anche il nostro bluesman Stefano, che forse convinceremo a parlarne. In pratica è un progetto dove diversi musicisti, tra cui che di tutto il globo, ma anche persone come Lorenzo Blues, che magari non tutti conoscono, ma hanno un blues allucinante, e anche dalla propria camera si connettono sulla rete e suonano. Sì, effettivamente sono, questa qua è una cosa molto bella. Si ascoltano e ognuno suona dalla propria postazione, al proprio angolo di mondo. E questa cosa è a portata globale. Ed appunto questo progetto che si chiama Playing for Change, e non so quando è stato fatto l'ultimo, ma vi daremo informati. Nel 2010. Oh, un storiaccio. Sì, è interessante. Non so come facciano con problemi di buffering e traffico video, ma comunque. Regista, ci siamo col prossimo pezzaccio. Andiamo? Sì, e questo pezzaccio è un pezzo dei Beatles. Credo. No? Avevo fatto segno diverso. Vabbè, lancialo tu. Mi fido. No, continua. La finestra è chiusa, magari. No. Dai. Credo sia quello. Cioè che mi adatto io in base a quello che dici tu. Ma era il secondo in ordine di... Quindi. È quello di esatto. Okay. È passivo Cicillo. Che cosa significa? Vabbè, è un pezzaccio dei Beatles, Yesterday, suonato da Ray Charles. All my troubles seem so far away. Night looks as though they're here to stay. So certainly. I'm not a half the man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. For yesterday can show me why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong, not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play, as it was. Now I need a place to hide away. But listen, I must have said something wrong, not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Questa era Yesterday, era Yesterday di Ray Charles, dei versione di Ray Charles, esatto, dei Beatles. Ovviamente pezzaccio dei Beatles, sì. Capolavoro, esatto, della musica moderna, inestimabile. Inestimabile. Ieri, Lorenzo. Esatto, volevi dire qualcosa a proposito di questo pezzo? Ma cosa si può dire su un pezzo del genere? Di tutto. Si sentono i toni particolarmente struggenti di questo addio inspiegato, di questa mancanza, forse forzata, no? A volte non si capisce nemmeno il perché. Qualcosa, qualcuno va via, ma succede. E il grande John Lennon ci ha lasciato questo pezzo che forse ci ricorda, citando... Era di Paul McCartney il pezzo, no? Va bene, Paul McCartney, ci ricorda, come ha detto anche Friedrich Nietzsche, che vorrei citare, come consolazione anche per queste cose che succedono inaspettatamente, che ci sono pezzi come questi, e quindi senza la musica la vita sarebbe un errore. Passiamo un po' alle news nerd, visto che grazie a Buon Cristo, tra l'altro ho scoperto che Cristo vuol dire unto. Voi lo sapevate? Sì. Unto allo Spirito Santo, dicono i cristiani. Però si possono fare un sacco di giochi di parole. Sì, direi. Non li fare però. Non farli, cioè, non farli. Tipo la padella crista di olio. Diciamo che non è che è proprio un gioco di parole. Ah, usarlo come sinonimo, dici tu. È una bestemmia. Oppure crista quella carne di maiale. Era miseria. Vabbè, comunque. Passiamo un attimino alle news nerd. Paura in cabina di registrazione. Bene, bene, bene. Hai visto? E partiamo con il nostro caro gruppo di Anonymous. Per l'esattezza, Anonymous Italia, che diciamo che dalla scorsa settimana fino ad oggi si è dato parecchio da fare. Infatti, se la scorsa puntata vi avevamo lasciato con l'attacco d'ossa ancora in corso sul sito del Vaticano, diciamo che ci sono ritornati, vero Ciccio? Sì, diciamo che ultimamente gli Anonymous mi stanno proprio piacendo sempre di più, visto che si stanno accanendo contro la Chiesa in maniera proprio, diciamo, veemente, ecco, il termine giusto. Questa volta a essere stati presi d'attacco non è stato il sito, diciamo, della Santa Sede, che ho avuto modo di visitare, è davvero ridicolo. Ma peggio, quale ridicolo. C'è pure la possibilità di visitarlo in latino, per chi proprio, diciamo, è degli anni 30 che ancora sa il latino. Tipo se you porn è down e hai bisogno di forti emozioni, puoi andare a visitare la pagina in latino. Sì, credo che le emozioni che ti dà una navigazione in latino siano le stesse di you porn, in ogni caso. Se non maggiori, voi lo, e voi lo sapete bene, vecchi Barcellona. Comunque, questa volta vittima dell'attacco degli Anonymous è stato il sito di radio, anzi, come è stato attenzionato il sito di Radio Vaticana, che sappiamo essere, diciamo, protagonista questa radio dai poteri mistici, essere protagonista appunto di numerosi misfatti medici, poiché essi trasmettono con una potenza della Madonna, lo posso dire perché in queste cose ci sta. Quindi ammetti che la Madonna ha potenza. La miseria, considera che tutti gli abitanti che si trovano nelle immediate vicinanze di questi trasmettitori hanno riportato delle alterazioni genetiche, tali per cui cancri analiraco. Diciamo che chi è così vicino alla voce del Cristo è un privilegiato e potrà andare a trovarlo di persona molto prima rispetto agli altri, magari. E infatti nel comunicato si parlava proprio appunto dei misfatti di Radio Vaticana, che sono anni ormai che ha addirittura anche in varie querele legali con anche vari comuni che denunciano l'aumento esponenziale di casi di cancro, tumore, eccetera eccetera. Però diciamo che come tipologia di attacco non è stato fatto il solito attacco DOS, quindi buttato giù temporaneamente il sito, ma a quanto pare sono riusciti ad avere accesso a parte del database degli utenti, che è stato anche pubblicato online con password, io mi ricordo anche ridicole, ci ho dato un caso tipo Piero, insomma, cioè username Piero, password Piero. Però ho trovato anche le password che erano XXX, il che è molto ambiguo. Non tanto, peccaminoso. Diciamo non tanto se consideriamo i trascorsi pedofili della chiesa, però in ogni caso non te l'aspetti che la password di un ecclesiastico sia appunto XXX, dai. Ma la storia ci insegna che dagli ecclesiastici ci possiamo aspettare di tutto, ma di tutto. Così come ci possiamo aspettare di tutto da te. Devo risponderti? E con questa versione del Gatto Nian, versione ascensore, cioè notate la finezza, notate. Andrea Blues non è tanto convinto. Faccio finta di esserlo. E neanche soddisfatto. Comunque, su questo bellissimo sottofondo continuiamo a parlare di Anonymous, perché per esempio era apparso un comunicato su Indie Media Italia, mi pare, dove appunto si rivendicava sempre a nome di Anonymous un attacco alla duxerrima radio Bandiera Nera, mi pare. Radio Bandiera Nera, che è stata a quanto pare defacciata. Poi io seguivo anche una discussione sulla mailing list di Hack Meeting, che è insomma una mailing list molto interessante, invito tutti a seguirla, dove appunto si diceva anche che dai vari comunicati si vinceva che per ben 50 minuti era andato in onda su Radio Bandiera Nera questa specie di sketch fra i due duxerrimi conduttori, che adesso vi facciamo ascoltare magari. Acciaio, ma che c'è? Te vedo scuro un volto. Facciamo una binetta. E dai, Anna, va. Comunque c'ha ragione, sono preoccupato. Mannaggia stossa, con sta storia dei forconi siciliani ci stanno a fare scarpe sti pecoroni di Forza Nova. Quel panzone dei fiori, miliardario rifardito di sto cazzo. Sì, oggi se stanno proprio a rimagnaggia lui, proprio come abbiamo fatto noi. Che tempi ne merda, ogni giorno che passa c'è qualcuno che ci rompe i coglioni. Non me lo dici che me lo del culo che non sai. E casa panda di qua, e casa panda di là, ormai ci hanno messo in mezzo. Ma come ci muovemo, ci fulminano. Pure in Spagna e secche ci hanno rotto il cazzo. Secche di merda, a me mi fanno proprio schifo. Ma a me mica mi preoccupano le secche. pure se de mattonate ce l'hanno tirata una cifra, eh. Ma sono l'altri gamberati il vero problema, va capire o no, a Franco Magno. Mi chiamo Carlo Magno, scusa, eh. Carlo Magno, Franco Magno, che cazzo ti pare, comunque esce segrete pure qua, a merda di Castellino, sto mezzo frocio che fa rocchettare questa minchia e poi se... Cioè, ma ascoltiamolo tutto, è fantastico. Tutto non lo possiamo ascoltare perché dura... 8 minuti, però se andate sul sito di Indie Media Italia e cercate fra i vari comunicati Radio Bandiera Nera, uscirà anche il link da cui scaricare questo simpatico, come lo possiamo chiamare, Cici? È una, diciamo, testimonianza dell'altezza dei discorsi che vengono praticati da questi loschi figuri, diciamo. Da questi signori. No, signori no, loro proprio signori, non si avvicinano manco. Signorine. Ma, forse più signori. C'è tanta politica dietro la vostra retorica, eh? No. Gamba, chi se ne è retorica? E chi è? Pure l'evidenza dei fatti. Comunque, c'è da dire che anche nella Listock Meeting c'è ultimamente un'interessante discussione su Anonymous, cosa sia la natura vera di Anonymous. Erano emerse posizioni anche molto interessanti che dicevano che Anonymous, appunto, più che un gruppo, quasi un brand veniva definito, se non ricordo male, perché effettivamente chiunque può operare in modo simile agli Anonymous e appunto rivendicare un attacco a nome di Anonymous, e questa, appunto, brand utilizzabile in modo globale, insomma, con fantasia. No, diciamo che se usi il nome di Anonymous non fai alcun danno, anzi, diciamo, considerando il tipo di attacchi che uno porta avanti, diciamo che è una grande cassa di risonanza. Anche se ovviamente anche in quella discussione si mettevano in evidenza i fatti che per la natura stessa di Anonymous è facilmente anche infiltrabile, cioè nessuno garantisce che magari qualche servizio segreto vada a fare qualcosa in giro a nome di Anonymous, e per la sua stessa natura è difficilmente dimostrabile il contrario di questa cosa. Comunque, insomma, io direi che basta Anonymous News Nerd. Invitiamo i nostri cari ascoltatori magari a pure seguire le discussioni in mailing list di Hack Meeting, molto molto interessante. No, io volevo giusto concludere questa notizia sempre sugli Anonymous, perché la locandina, tra virgolette, del loro nuovo attacco si chiama Trinitalia, richiamando sempre a più cose, diciamo. A più cose. E in particolare sono tre, perché appunto oltre a Radio Vaticana, sempre sia lordata, abbiamo Ferrovie dello Stato e Equitalia. Ferrovie dello Stato, nel comunicato di Anonymous, chiaramente si rifanno a quelli che sono i recenti accadimenti per quanto riguarda la TAV, ma non solo. Per esempio la soppressione dei treni per i pendolari e tutti i servizi che questa gloriosa azienda crea ai suoi utenti. Però abbiamo le frecce rosse. Le frecce rosse, che vabbè, sappiamo bene dove vanno a finire. Andare a Lione, ci puoi a Lione tu. No, diciamo che puoi arrivare da Cosenza a Milano cambiando 8 treni solo? Sì, yeah. E diciamo che metà del viaggio te lo fai tra Cosenza e Napoli, poi però vai veloce. Però vai veloce, almeno. Vai veloce dopo, però, dopo che esci dal Sudafrica, diciamo. E l'altro attacco che appunto vi dicevo era ovviamente riguardo alla ormai notissima Equitalia, dove appunto i ragazzi di Anonymous parlano di ferocia inaudita con i quali questi esattori delle tasse, tipo Foresta di Sherwood, diciamo, ci ricorda molto gli esattori di Robin Hood, compiono veri e propri, secondo me, crimini, perché davvero Equitalia ha dei modi di fare assolutamente da strozzinaggio, comunque. Infatti sono anche numerosi i suicidi, diciamo, che i casi di suicidio che sono riconducibili a questo modo di agire di Equitalia. No, perché Togo, ti mandano la bolletta, perché anche i comuni si sono affidati adesso per la riscossione delle tasse a questa azienda, ti mandano la bolletta tipo oggi, 500 euro da pagare entro il 31 marzo, e quindi, diciamo, se non ce li hai i soldi, o bruci o ti impicchi. Però diciamo che se bruci, ti pignorano macchina, ti bloccano, insomma. Però sono equi, eh. Ti pignorano l'anima. E infatti non so questo equo da dove cazzo l'hanno preso. C'è la cosa bella che ti rimbaccia. Sì, che, diciamo, sentendo gli ultimi discorsi sull'equità, abbiamo di che di ridire, comunque. Ma sono quelle cose simpatiche, tipo Vergine Maria, capì? Cioè, sono quei giochi di parole là. Molta ironia, molta ironia. Comunque penso che adesso possiamo andare col prossimo pezzo, sì, che sì, ci introduce Lorenzo Blues. Sì, questo pezzo è di uno dei chitarristi, di una delle leggende viventi del blues. Che io ho visto e tu no. Lo sai? Sì, lo so. Mi verrebbe da dire, io l'ho visto e tu no, io l'ho visto e tu no. Pappero, vabbè, io mi mangio le mani per questo. Il prossimo pezzo è di Buddy Guy. Si chiama First Time I Met the Blues. È un live del 1970. Thank you. la sua gatto, veramente. Siamo i Mozilla Bros, ritorniamo in onda dopo l'entusiasmo. Che blues! L'entusiasmo di questo ma blues. Che blues era? Questo blues, questo Nyan Cat stranissimo. Mamma. Era un blues di Buddy Guy, uno dei, delle leggende viventi di cui parlavamo prima. Beh. Questo sì, è stata una leggenda del blues. Il maestro di Eric Clapton. Esatto. Per dichiarazione dello stesso Clapton. È il primo ufficiale ispiratore di Jimi Hendrix. Ufficiale non direi, però. Ufficioso, possiamo dire pure ufficioso, perché come Stefano ci diceva prima, ed è troppo timido per ripeterlo adesso. No, deve dirlo Stefano. Ok, dillo Stefano. Sì, sì, no, altrimenti non la passiamo questa cosa. E uno? No, passiamo 20 minuti di Gattonian e poi a tavoletto. Cioè, oh, Stefano, vieni qua. No, mi interessa. Ti prego, Stefano. Sarà una rappresaglia proprio. Sono capace di farlo. I nazisti se la sognavano proprio questa cosa. Noi li conosciamo, cioè, sono capaci di farlo. Dai. Vabbè, l'avete voluta voi. No, ti prego. Stavo fisicando, dai, però insomma. Non stavano fisiando per niente, dai, vabbè, non lo vuole dire. Paura. Comunque, una delle prime volte che Hendrix suonò in Inghilterra, qualcuno, forse Clapton, vedendolo disse: sembra di vedere Buddy Guy suonare sotto effetti di acidi. O sbaglio? Eh beh, così ci riporta il nostro bluesman d'eccezione. Il nostro bluesman, blues. Il nostro ospite blues. Ma vabbè, cose comunque da verificare. Cioè, ci sarebbe un sacco di cose da dire su Buddy Guy, tipo che oggi è l'anniversario del suo inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame. Esatto, proprio il 14 marzo del 2005 è stato inserito da Eric Clapton e B.B. King, che sono due nomi non poco giusto, due passanti. Esatto. Così è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, così come la sua prima chitarra è custodita in una Rock and Roll, in una... Sì, è custodita lì a Cleveland. Cleveland, esatto, come dovevi dirci tu. E poi, vabbè, questa era First Time I Met the Blues, scritta con etichetta Python, quindi c'è qualcosa anche di informatica. Sì, perché Python è un linguaggio di programmazione. Sì, questo ci arrivavo anch'io. Ma soprattutto parlando di Buddy Guy, non possiamo noi non dire la cosa più importante che riguarda tutti noi, tutta la gente bruzia che effettivamente ci ascolta, è stato qui. È stato qui. Abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo live. Hai avuto il piacere, perché io mi sto mangiando ancora le mani adesso. È stato a Rossano, Lorenzo Blu. No, ero qua io, il 18 luglio 2010. The Town of the Blues, Cosenza. You know, Lore, you know. Venitelo a vedere, Buddy Guy, cioè voglio dire. Sì, è stato... Ti sei perso Salomon Bark. Una pecca è stata quella di non... Ti sei perso Anna Popovic, ti sei perso Ullin John Roth. È buono. Non è stato solo lui. Buono. E no, ricordiamo... Pure tu avevi un aneddoto blues da raccontare su Buddy Guy, vero? Un aneddoto blues, sì, quando è venuto qui, e mentre cantava, mentre buttava le sue urla con i suoi bending, Stefano, blues veramente allucinanti, qualcosa di inaudito, nemmeno ti dirò, qualcosa paragonabile a quelli di Gilmour, però ancora più estremi. Erano blues questi qua, dai. Sì. C'era l'agonia del blues. Ovviamente. E durante una di queste strepitose esecuzioni ha parlato della sua amicizia, perché veramente questo era il suo rapporto col grandissimo Eric Clapton. E lì Cosenza è esplosa, la Villa Vecchia in delirio. Sì, quando col castello svevo di sottofondo. Momenti veramente magici, indelebili nella nostra memoria. Dobbiamo solo ringraziare Buddy Guy. E lo deve ringraziare anche. E ringraziamo anche le Invasioni, che è un grande evento di cui Cosenza si vanta, che ha ospitato gente come la sacerdotessa del rock, Lorenzo Blues, Patti Smith. Non vorrei dire, ma è venuta a Cosenza Patti Smith. E quindi viva le Invasioni, sindaco, se stai ascoltando, non le facciamo morire. Quest'anno vogliamo Clapton. Quest'anno Clapton. E e abbiamo avuto di nuovo le cuffie funzionanti in regia. Andiamo lì, ecco, è una cosa che proprio c'era il felto. Caruf, bentornato, cosa ci racconti? Aumenta la professionalità. Caruf, c'è un sacco di neve in Sina. Ah sì? A Nord Italia hanno un pochino di rosicano. Non so se usate questo termine voi a Cosenza. No. Soffrono. No, non è arrivato qui a Cosenza. Forse vuole al nord. Al nord, che noi abbiamo la neve e loro non ne hanno. Vabbè. Beh, visto che abbiamo parlato di Buddy Guy ed è ora di lanciare il prossimo pezzo, io direi di lanciare il pezzo del suo diretto erede, se così vogliamo chiamarlo, vero? Stiamo parlando di Eric. Eh sì, stiamo parlando proprio di Eric. Vai, regista. Riccuzzo. Ma qual è la sua? Ma non sentivo la... Adesso... At this moment, I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about me, baby. You got to know. Le reclamazioni contro la regia vanno messe in busta, insomma, scritta e indirizzate in busta chiusa. Ciao, a poi le imo. Questo era Eric Clapton con il suo cuore rock and roll. Sì, I've got a rock and roll heart. Sei un romanticone. Sì, sono un romanticone anche perché hai scelto tu questa canzone. L'hai scelta per me, dicevi. Ovviamente, solo per te. L'ultima cosa che volevo dire a proposito di Buddy Guy è che ha aperto un locale a Chicago, nel loop di Chicago, no? E praticamente ogni tanto potete trovarlo lì a suonare, oppure che vi porta. C'è una particolarità che vi porta da bere, cioè proprio lui vi porta da bere. Cioè, quando andiamo? Andiamo da, abbiamo una birra. Oh, Buddy, porta una birra. Let's go. Let's go to Chicago. To Chicago questa volta. Un saluto ad Alex. Un saluto ad Alex, sì, certo. Bene. Quindi secondo me abbiamo parlato troppo poco di notizie. E infatti mi arrivavano commenti sul cellulare su poche info tecnologiche, anche se poche info tecnologiche. Tecnologiche. Vabbè. Tecnologiche ci sarà. Nerd è un altro discorso. Tecno nerd. Era il buon Fabio che ci segue da, addirittura da Roma. Noi abbiamo ascoltato in tutto il mondo. Abbiamo avuto chiamate internazionali da Argentina e Australia. Vabbè, però pure Roma. Per dire, quattro spiccioli. No, niente, di cosa vogliamo parlare? Pirate Bay? C'è qualche notizia riguardo la nostra baia dei pirati preferita? Ma è ancora oscurato quel sito. Eh sì, è oscurato in Italia. È anche un blocco sugli IP ancora. Quindi per arrivarci bisogna purtroppo utilizzare solo i proxy. Oppure navigare dall'università, perché il GAR non lo blocca. Il GAR non lo blocca, quindi dall'università è raggiungibile, diciamo. Cosa è successo a Pirate Bay? Non è paranoia. No. No, non è paranoia. No, scherzi a parte. È stata una notizia di poche ore fa o pochi giorni fa? Che io leggo in differita, quindi precedentemente giorni. Mi dicono giorni dalla regia della regia. In pratica si paventava questo raid sulla baia da parte degli sbirretti che avrebbero questo tentato... ride Reich, sapete. Prego? Questo raid un po' Reich. Mamma mia, tu oggi sei proprio informissimo comunque. Io ancora non l'ho capito. Eh? Ancora non l'ho capito. Poi quando cresci la capirai, non ti preoccupare. In ogni caso si paventava questo... O meglio, avevano annunciato questo raid appunto da parte degli sbirri che volevano... Stanno tentando di chiudere anche una delle poche isole felici che è rimasta sulla rete. L'isola che non c'è. Sì, una delle poche, diciamo, il Tracked Torrent di gran lunga forse più famoso. Come i Tracked BitTorrent, se mi parlate... I Tracked BitTorrent che servono appunto per condividere dei file grazie alla rete peer-to-peer. Che ultimamente ha preso una scelta, cioè quella di eliminare i file torrent ed utilizzare i magnet links. Cosa sono i magnet links? Sì, l'ultima volta che mi sono trovato a scaricare da torrent non riuscivo a trovare il file torrent. Esatto, perché i file torrent ormai sono una cosa redondante e obsoleta, ragazzi. È deprecata. Infatti, grazie al magnet link ci spostiamo ancora di più verso il distribuito e abbandoniamo ancora più il centralizzato. Che cosa significa? Che adesso sono i file .torrent, che erano dei piccoli file contenenti dei metadati che ci consentivano di prendere alcune informazioni che ci consentivano, mamma mia, di scaricare i file appunto che desideravamo. Adesso questi metadati noi siamo condensati in questo link e tramite questo link noi riusciamo a chiedere, diciamo, alla rete di trovare questi metadati che ci consentono appunto di scaricare i file. Diciamo che, insomma, invece di chiedere a questo server centralizzato che potrebbe essere chiuso da un momento all'altro o che comunque potrebbe essere messo sotto pressioni legali solo per ostare questi file, io posso chiedere praticamente a un peer, a un vicino della rete, questi metadati che me li fornisce. Evviva il magnet! Evviva il magnet, soprattutto evviva il distribuito. Quando una cosa è distribuita, come abbiamo sempre detto, è sempre meno attaccabile sia dalle autorità, sia dalle... Perché con una cosa è libera. Ok, grande citazione, mai dimenticato. Ok, grande. Ok, dopo questa mia spiegazione orrenda di cos'è un magnet links e confusionaria, vi dico che però su Torrent Freak c'è un link che in realtà ve lo spiega veramente cos'è un magnet links e vi spiega anche di alcune tecnologie fighe per trovare utenti nella rete peer-to-peer da cui scaricare, che sono le tabelle hash distribuite e il PEX. Comunque la chicca simpatica di tutta la vicenda è stata che tra l'altro è venuto fuori questo presunto possibile raid degli sbirri proprio perché era apparso sto link. Vabbè, io ormai la dico anche se si è spento il computer, quindi non avremo più basi, quindi la dico molto lentamente. Era apparso praticamente un leak proprio su Pirate Bay. Quindi su Pirate Bay c'era sto file che parlava della possibile chiusura di Pirate Bay. E adesso sarebbe un bel momento per mandare uno stacchetto musicale, una base, qualcosa, però non si può. Non si può perché il computer cicillo si è spento. Magari c'è il nostro Lorenzo Bus che canta. Che c'è? stessa cosa. E ci riappoggiamo alla radio random di Ciron. Ai noi passa in questo momento, stranamente e raramente, musica. Mi pare che era la cartella pezzi di merda. È partito proprio un pezzo di quella cartella. Oh, e mo di che parliamo? Certo che è un'organizzazione. Bene, io vorrei scusarmi per le varie vicissitudini in regia che sono... Ma questo è il bello della diretta, caro. Sì, però... Non ti mancava? Ci mancava un po' di professionalità, secondo me, a questa puntata tecnica, ma... Vabbè. Ci confondono chi usa il mixer prima di noi, diciamo... Facciamo un po' di scaricabarile, non è vero, siamo noi incapaci. Sì, certo. È vero. Ok, ma adesso io... Forse è arrivato il momento. Anche perché... tardi, la gente vuole mangiare, sappiamo che non mangia se prima il mercoledì non ascolta lui, o no? Abbiamo un pezzo? Abbiamo un pezzo fuori scaletta, quello che abbiamo aggiunto all'ultimo nella scaletta, ecco perché non lo ricordavo. Appunto. Un'artista, donna questa volta. No, in realtà c'era un altro pezzo che volevamo passare, che è stata una richiesta questa. È stata una richiesta? Sì, da parte del nostro capitano. Esatto, del nostro capitano che è a Milano per motivi suoi. Capitano, ti frichi, non la passeremo mai. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Wop, wop, wop, wop. Non disperate, guardate cosa abbiamo trovato sul computer. Che questa qui vada benissimo al nostro Bluesman di Milano, penso che l'apprezzi. Speriamo di sì, anche perché gli piacciono gli uccelli. No, scherzavo. È un grande Natale. Yeah, era pessimo. Bella parola. Se venite avanti ancora vi do il questa. E questa la dedichiamo. Il nostro movement, ancora una volta. È troppo eretico. No, non sono questa. Però quella là non era prevista, diciamo, è stata quella una dedica personale tua, diciamo. Sì, anche perché, vabbè, poi spieghiamo dopo che cosa significa questa canzone. Questo è Howling Wolf con Backdoor Man. Torniamo in onda. Tutti quanti qua a Radio Cinoma. Siamo i Mozilla Bros. Siamo i calmi. Siamo tranquilli. Sì, bene. Noi siamo i calmi Mozilla Bros. Questo è Howlin' Wolf, con una canzone scritta per lui dal grandissimo Willie Dixon, a cui molti dei bluesmen dell'epoca devono parecchio. Il nostro sfondo è calmo. Ci vogliamo bene? Tutti no, però gran parte. Vabbè, anche Muddy Waters deve parecchio al grande Willie Dixon, anche i Led Zeppelin stessi. Insomma, questa canzone che si chiama Backdoor Man ha qualcosa di... L'uomo della porta del retro. Adesso tu spiega. Allora, questa espressione aveva un significato particolare nella cultura degli anni 20, quando significava che un uomo aveva una tresca con la donna di un altro, per cui usava la porta del retro per scappare quando il marito di lei rincasava. Negli anni 60... Tipo il postino. Esatto, la versione, diciamo, porno, però. tu che sei un esperto, sì. Vabbè. Mentre negli anni 60 il significato ha acquisito... No, questa cosa no, eh. Questa cosa... Ha acquisito un significato particolare, che era proprio colui che praticava il sesso della porta del retro, insomma. Colui che letteralmente entrava di dietro. Usava il retro, esatto. Sì, sì, sì, sì. Dopo il pesce e l'uccello là. Non so che cosa possa significare, che cosa la gente possa pensare dei nostri pezzi. Come diceva Garolf prima, a parte che oggi è il giorno del pi greco, visto che mi è venuto in mente, dato che lo diceva Stefano prima, però vedo anche il pi greco sul computer di Ono. È il giorno, perché è 14 marzo, che nella notazione anglofona, anglofila. Sì, sei sicuro? Sì, vabbè, in America si legge prima il mese e poi il giorno, quindi è il 3-14. vero, sì. Oggi è il P-Day. E vabbè, dopo questa ultima affermazione strana, mi riallaccio a quello che diceva Garolf prima, che c'è gente che aspetta questo momento da praticamente tutta la trasmissione, vero? Il P-Day? No, il momento C, esatto. Il momento C? Il momento cantante, infatti c'è Andrea che pressa Garolf da dietro per fare la sua performance. A voi il cantante. Buonasera, vi canto prima una canzone in inglese e poi in italiano. Di questa canzone prima è di Remme, la canzone poi Celentano. Celentano ora. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro di chi c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Tra le mie braccia dormirà serenamente ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente, no, un'altra vita mi darà che io non conosco. La mia compagna tu sarai fino a quando lo vorrai, poi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia, e sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirà serenamente ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente, no, un'altra vita mi darà che io non conosco. La mia compagna tu sarai fino a quando lo vorrai. Buonasera. Incredibile il cantante, il nostro cantante, sempre il grandissimo cantante. Questo era il grandissimo cantante. Queste canzoni saranno inserite nel prossimo disco. Beh, buono. Sì, merita, Lorenzo. Sì. Bene, dovremmo andare via. Stiamo occupando la decima per più del tempo che ci è concesso. Esatto. Vi lasciamo con l'ultimo pezzo. Sì. Lei, come dicevamo prima, è una blues girl. È una blues woman, direi. È una blues woman con un blues allucinante. Una blues woman dei tempi blues recenti, perché come abbiamo parlato prima ci sono leggende e nuovi talenti. Questi sono dei nuovi talenti, sebbene sia più giovane di Kev Mo. Lei ha origini italiane, che però non riesce a determinare, non sa da dove proviene, si è dispersa in quel territorio vastissimo che è l'America, però almeno fa blues, lo sa fare, quindi glielo perdoniamo. She feels. Lei è Susan Tedeschi e questo è I Won't Burn. Noi vi salutiamo. Salutiamo anche noi da questa parte del vetro, richiediamo scusa per i problemi della regia. Maledetti. Ma faceva tutto parte dello spettacolo. A mercoledì prossimo su Radio Ciroma alle 7. Blues on. E su Radio Transizione di Fate lunedì, forse. Oh. yeah.